24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra, questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano in questa edizione l'asta della Banca Centrale Europea, la sentenza della Corte di Giustizia che dà il via libera alla tassa sulle emissioni per le compagnie aeree e quindi il nuovo governo spagnolo. Apriamo dunque col boom di richieste delle banche all'asta 36 mesi dell'Eurotower, il servizio. La Banca Centrale Europea inonda di liquidità il sistema bancario, ma non convince i mercati finanziari che la crisi che attanaglia l'area dell'euro da oltre un anno e mezzo sia avviata a soluzione. Oltre 500 banche hanno ottenuto dalla BCE 489 miliardi di euro di finanziamenti a 3 anni, una cifra record, a un tasso di interesse dell'1%. Le banche italiane hanno chiesto all'Istituto di Francoforte una cifra vicina a 50 miliardi di euro. L'intenzione della Banca Centrale, come ha dichiarato il suo presidente Mario Draghi, è che questi fondi vengano utilizzati per fare credito all'economia in una fase in cui le banche hanno grandi difficoltà a raccogliere risorse e c'è il rischio di una stretta creditizia che aggravi la recessione dell'economia. Si tratta ora di vedere se i nuovi fondi serviranno effettivamente per estendere nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie, oppure se le banche europee si limiteranno a ripagare i propri debiti in scadenza che nel solo 2012 ammontano a oltre 700 miliardi di euro. La crisi comunque resta aperta, come dimostra la reazione negativa dei mercati con il ribasso dell'euro e l'aumento degli spread dopo una breve fase di euforia subito dopo l'annuncio dei risultati dell'asta. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E i mercati hanno reagito con freddezza all'asta della BCE. La mossa della BCE di finanziare a 3 anni con ammontare illimitato gli istituti di credito europei non ha convinto fino in fondo i mercati sui timori che le risorse potrebbero non essere utilizzate per acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà. L'Europa, dopo un avvio in rialzo così chiuso vicino ai minimi di seduta, con Milano in calo dello 0,97%. Negative le banche, guidate da Unicredit, meno 4,4%, colpita dai realizzi dopo un guadagno dell'8,6%. 6% in 2 sedute. Gli investitori sono ancora in attesa dei dettagli relativi all'aumento di capitale che partirà a gennaio. Ma le BPM meno 3%, con il mercato che inizia a valutare l'impatto sul titolo di una eventuale class action, considerando che Federconsumatori ha dato mandato ai legali per un'azione collettiva contestando il prestito convertendo emesso a fine 2009. Sempre tra le banche in controtendenza Intesa San Paolo più 1,2%. Nel resto del listino Apulia è balzata del 33% circa, chiudendo poco sotto il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto a 0,3 euro annunciata dalla controllante Banca Apulia. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata al trasporto in Europa. La prima notizia riguarda i cieli. Una tassa sull'inquinamento aereo. A partire dal 1 gennaio 2012 le compagnie aeree dovranno pagare per le emissioni di gas serra causate dai velivoli che atterrano nei 27 paesi dell'Unione. Una tassa per compensare le emissioni di CO2. La Corte di Giustizia del Lussemburgo considera infatti valido anche per il settore aereo il cosiddetto ETS, ossia l'Emission Trading System. È stato così respinto il ricorso presentato da alcuni vettori statunitensi che consideravano discriminatoria la norma adottata dall'Unione nel 2008. Per la Corte, invece, l'applicazione all'aviazione del sistema ETS di compensazione non viola i principi di diritto internazionale né l'accordo cieli aperti. Le ricadute economiche sui passeggeri, secondo i primi calcoli, sarebbero ridotte 1 o 2 euro a volo, fino a 12 euro per le tratte transatlantiche. Ma da commerciale la questione è diventata politica, perché la Camera dei rappresentanti americani ha infatti adottato un progetto di legge che proibisce alle compagnie di accettare la norma europea, mentre la Cina ha minacciato ritorsioni commerciali, in particolare contro Airbus. Ora in Francia il braccio di ferro tra governo e sindacati mette a rischio gli aeroporti proprio alla vigilia delle vacanze di Natale. Dopo 5 giorni di protesta degli addetti alla sicurezza presenza negli scali di Charles de Gaulle e di Lione, Parigi si dice pronta a sostituire gli agenti in sciopero con 300 poliziotti e 100 gendarmi. Lo ha fatto sapere il portavoce del Ministero dell'Interno. Protestano le associazioni dei lavoratori, oggetto della trattativa, le richieste di un aumento degli stipendi, a cui l'esecutivo ha risposto rilanciando l'introduzione del servizio minimo garantito per ovviare al blocco degli scali. Incompatibile con la libera circolazione delle merci, così la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stigmatizzato il divieto posto dall'Austria alla circolazione di autocarri che trasportano determinate merci sull'autostrada della Valle dell'Inn nel Tirolo. Un verdetto importante perché la A12 è una delle principali arterie di comunicazione tra Germania, Italia e Austria. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al trasporto andando ora in Spagna, dove ha giurato davanti al re Juan Carlos Mariano Rajoy. Il nuovo premier popolare ha così assunto formalmente l'incarico. Molto compatta la sua squadra, che ha annunciato 13 ministri, con Soraya di Santa Maria nel ruolo di vice premier e portavoce del governo. Un ex di Lehman Brothers, l'economista Luis de Guindos, è invece il nuovo ministro dell'economia. Il sindaco di Madrid, Alberto Gallardón, alla giustizia, Cristobal Montoro al tesoro e Jorge Fernández Díaz agli interni. Siamo alla cronaca. Dopo 10 mesi nelle mani dei pirati è stata liberata la nave italiana Savina Caroline. 10 mesi di prigionia, 11 milioni di dollari di riscatto, un prezzo che si può definire standard in un mercato che dal 2005 ha visto le bande somale specializzarsi in quella terra di nessuno che è la costa del Corno d'Africa dopo l'implosione dello Stato somalo. Solo quest'anno sono state 25 le navi catturate di ogni bandiera e marina, e se per molte tra loro la libertà è stata comperata, in altri casi sono state liberate da interventi cruenti delle forze speciali di Stati Uniti, Indonesia e Francia. Una scelta che l'Europa tende ad evitare, cercando di investire su pattugliamento, protezione a bordo e, quando serve, la trattativa. Dal 2008 l'Unione ha messo in campo l'operazione Atlanta per il coordinamento in condizioni di estrema complessità di un dispositivo di protezione europeo che soltanto quest'anno ha visto impegnate 10 navi e 1500 uomini. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è allarme in più paesi per le protesi al seno cancerogene arrivate dalla Francia. Il rischio è quello di poter sviluppare tumori. Per questo in Francia 30.000 donne con una protesi al seno di tipo PIP sono state richiamate dalle autorità sanitarie. Benché fuori dal mercato da circa 2 anni, le protesi incriminate fanno paura anche in Italia. Sarebbero infatti circa 4-5.000 le donne che nel nostro paese hanno una protesi di questo tipo. Il ministro della Salute Renato Balduzzi ha convocato d'urgenza per domani il Consiglio Superiore di Sanità per un parere. Fabbricate sotto costo dall'azienda francese numero 3 mondiale del settore per anni con un silicone di tipo industriale e non medico, le protesi possono lacerarsi provocando infiammazioni e, secondo vari esperti, anche forme tumorali, come gli 8 casi denunciati in Francia, di cui 2 mortali, dimostrerebbero. Dalla Francia l'allarme è scattato non solo in Italia, anche in Spagna e in Inghilterra, dove, secondo il Ministero della Salute, le donne a rischio sarebbero 50.000. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di virus e terroristi. 2 gruppi di ricerca in Olanda e negli Stati Uniti hanno raccolto una serie di dati sul virus H5N1, quello dell'aviaria, ma le autorità americane chiedono alle riviste di scienza di non pubblicare i dettagli perché potrebbero essere usati dai terroristi. Sentiamo. Quando la scienza fa paura, verrebbe da dire. Sotto accusa un laboratorio sperimentale olandese. Un gruppo di scienziati europei vi hanno lavorato per mesi, arrivando a creare in vitro un ceppo altamente letale di influenza aviaria, che potenzialmente potrebbe infettare e uccidere milioni di persone. Uno studio rivoluzionario per la scienza, ma altrettanto pericoloso. La pensa così almeno l'amministrazione americana, che ha chiesto, prima volta nella storia, alle riviste scientifiche Nature e Science di pubblicare versioni parzialmente censurate degli studi. In sostanza, i risultati sì, ma non come arrivarci. Il timore è quello che gruppi terroristici possano utilizzare gli esperimenti olandesi per ricreare e utilizzare per altri scopi il potentissimo virus. La domanda che si fa alla stampa americana lascia aperto il dibattito. Non sarebbe stato meglio condurre gli esperimenti in un laboratorio militare piuttosto che in un centro universitario? Ma allora viene da aggiungere: parliamo di scienza o di armi? Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Praga, nel primo giorno di lutto nazionale, migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Václav Havel, eroe della rivoluzione di velluto. 10.000 persone hanno già visitato infatti il castello di Praga, sede della presidenza ceca dove è stato esposto il feretro. Venerdì invece ci saranno i solenni funerali. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.